Ieri a Riccione ha preso il via la decima edizione del premio giornalistico dedicato all'inviata del TG3 Ilaria Alpi. Ilaria è stata assassinata in Somalia insieme al suo operatore Miriam Rovatin il 20 marzo del 1994. A distanza di 10 anni e dopo le innumerevoli richieste della famiglia, finalmente quest'anno a gennaio è stata istituita una commissione parlamentare d'inchiesta. Sono ancora molte le domande senza risposta sul caso di Ilaria e Miriam. Perché Ilaria e Miriam sono stati assassinati? Chi sono i mandanti? Su cosa indagava Ilaria quando è stata uccisa? Quesiti cui è chiamata a rispondere la commissione, che oggi è riunita a Riccione in concomitanza con i lavori del premio giornalistico. Abbiamo chiesto al suo presidente, Carlo Taormina, a che punto sono le indagini. I risultati sono quelli di avere raccolto un materiale incredibile sia di tipo giudiziario che di investigazione, sul quale mai nessuno aveva fatto convergere l'attenzione. In secondo luogo abbiamo riesumato la salma di Ilaria Alpi, l'abbiamo sottoposta ad esame autoptico vero, le conclusioni definitive ancora non le abbiamo, ma certamente siamo in grado di avere una chiarezza assoluta sulle modalità con le quali è stata uccisa. Inoltre abbiamo ricostruito tutto il soggiorno di Ilaria dal giorno in cui arrivò in Somalia fino a quello in cui fu uccisa, e quindi smentendo parecchie pagine di sentenze giudiziarie che avevano in maniera approssimativa ricostruito questi passaggi, precludendosi la possibilità di accertare come fossero andate realmente le cose e quindi le ragioni della uccisione di Ilaria Alpi. Poi stiamo lavorando su una importantissima fonte che potrebbe essere risolutiva dal punto di vista della individuazione anche dei responsabili di questa come mandanti ed alcuni come esecutori dell'omicidio, per cui insomma questa è la situazione. Allo stato degli atti non le posso dare una conclusione, le posso dire che abbiamo forti ragioni di ritenere che il lavoro avrà l'esito positivo. Riuscirete a concludere il lavoro entro i 6 mesi che vi sono stati messi a disposizione? No, è ben noto che questo non potrebbe accadere, e per questa ragione la commissione sarà prorogata, ne abbiamo fatto richiesta tutti i componenti della commissione. Potrebbe dirci che cosa ne è stato delle richieste dell'onorevole Bulgarelli sulla questione della nave fantasma e sull'acquisizione degli atti? Su questo punto stiamo svolgendo approfonditissime indagini e non le posso dare alcuna indicazione. Le posso dire che sono state delle indicazioni molto, molto importanti. Le dichiarazioni di Taormina sono rassicuranti. La verità su Ilaria e Miriam verrà presto a galla. Eppure, in 10 anni di indagini e depistaggi, questa verità è sembrata inafferrabile e le istituzioni se ne sono disinteressate. Oggi a Riccione c'era anche l'associazione Reporter Senza Frontiere, che da tempo è impegnata nella lotta per la libertà di stampa. La superficialità delle indagini sinora svolte sull'assassinio di Ilaria e Miriam è un caso internazionale, secondo Reporter Senza Frontiere, che non fa onore a un paese che si professa democratico. Soria Blattman, presidente di Reporter Senza Frontiere, è a Riccione per chiedere alla commissione di arrivare finalmente alla verità. Ascoltiamola. Ho incontrato il presidente Taormina questa mattina e gli ho spiegato quanto eravamo attenti al caso Ilaria Alpi, che per noi rappresenta un caso emblematico di violazione della libertà di stampa, una pagina nera nella storia della libertà di stampa, e quanto non fosse soltanto un caso strettamente italiano, ma anche internazionale. Noi, in quanto organizzazione internazionale di difesa della libertà di stampa, lavoriamo tutti i giorni, fortunatamente, su casi simili a quello di Ilaria e Miriam. Abbiamo dei casi di impunità dappertutto nel mondo, penso alla Bielorussia, all'Ucraina, ad Haiti, a Cuba, alla Colombia, ma sono paesi non democratici. E la cosa particolare per il caso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è che succede in Italia, è un caso tale di impunità, di manipolazione delle informazioni, di mancanze e irregolarità durante l'inchiesta, che ha durato 10 anni, di ostacoli allucinanti durante l'inchiesta, e succede proprio nel cuore dell'Europa. È un caso che non riguarda soltanto l'Italia, ma anche l'Europa, questo lo ripetiamo da anni, ed è quello che ho detto al presidente Taormina, chiedendogli se veramente era fiducioso nel fatto di avere elementi nuovi abbastanza rilevanti per riaprire seriamente il caso degli Alpi e trovare finalmente e punire i mandanti, i veri responsabili di questo duplice omicidio. E mi ha risposto, come ha detto al resto della stampa italiana, che era molto fiduciosa, che pensava che a settembre e ottobre avrebbe abbastanza elementi nuovi da rivelare e da rendere al Parlamento per fare veramente qualcosa di nuovo in questo caso. Ci ha parlato anche di una fonte che avrebbe potuto addirittura risolvere il caso scoprendo i mandanti e il movente dell'omicidio. Ci sono tanti documenti della Digos, del SISDE, del SISMI. Le informazioni sono numerose sul caso Ilaria Alpi, i nomi lì li abbiamo, i nomi li conosciamo, il problema è il problema delle fonti che legalmente non si possono rivelare, cioè hanno il diritto i servizi italiani di non rivelare il nome della fonte, e per questo a livello giuridico non vale. E in effetti il presidente Taormina mi ha confermato che lui sarebbe in grado di rivelare il nome della fonte, il che sarebbe un'informazione capitale, perché vuol dire che i nomi dei mandanti saranno conosciuti e saranno soprattutto utilizzabili davanti alla giustizia. Visto quanto è successo in questi ultimi anni sul caso Ilaria Alpi, su come è stato condotto e su tutti i depistaggi che sono stati fatti appunto sul caso, quanta fiducia come associazioni avete nella commissione d'inchiesta? Fiducia, non si tratta di fiducia per Reporters sans frontières. Noi non siamo la famiglia di Ilaria né di Mira, non siamo amici loro, noi siamo un'organizzazione, lavoriamo proprio tutti i giorni su dei casi simili a questi, non abbiamo fiducia. Se fanno un buon lavoro diremo che fanno un buon lavoro, se invece valutiamo che non è sufficiente o che i veri responsabili di questo orrendo assassinio non sono stati trovati, e se le responsabilità politiche, giuridiche, militari, economiche non sono stabilite, lo diremo a quel punto. Per adesso non si tratta di fiducia. Io ho parlato col presidente Taormina, mi ha detto quello che poteva dirmi, cioè poco niente. Adesso siamo fiduciosi perché alla fine siamo in un paese democratico ed è una commissione parlamentare d'inchiesta. Aspettiamo i risultati della commissione, aspettiamo di vedere la loro relazione, di leggerla e poi daremo la nostra opinione. La morte di Ilaria e di Miran è uno dei tanti misteri italiani senza risposta. Forse oggi si è aperto uno spiraglio, ma resta l'amarezza per 10 anni di bugie e disinteresse.